silenzio di un giorno più sereno, in un cielo di gabbiani, nelle scie degli aeroplani, io ti cerco fra le stelle al di là. Tra le nevi e le foreste di montagna, tra le strade pulite di campagna, tra le rose dei giardini, nei sorrisi dei bambini, io ti cerco nella strada che farò. Nei vulcani che ardono da sempre, nel calore di una stretta di mano, nel tuo sguardo solare, nella pace che verrà, io ti cerco dove il sole nascerà. Ti amo, ti vivo, mi innalzo in volo, ti voglio, ti sento, cantando in coro. Ti seguo, ti vivo, ti voglio, ti amo, vivendo, amando, io seguo il tuo volo.